24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Vogliamo elettori, il bagno alla turca! Io penso che Renzi sia in un mare di guai. Renzi, il ragioniere generale dello Stato che sta zitto, e il ministro dell'economia e delle finanze che pure sta zitto. Evidentemente sono in un mare di guai. Eccoci, eccoci, il Brunetta del giorno. Ah, io senza Brunetta, lo dico sempre, non mi rassereno, non inizia bene la giornata se non c'è un Renato Brunetta che dice che Renzi è in un mare di guai. Ecco, questo è il suo pensiero del giorno che vi affidiamo alle 6:31 minuti. Cari ascoltatori, siamo qui. Con Miriam Lucchetti in redazione, vedo Carmelo Lauricella in regia, Pietro Lacorte che sta lì dietro la regia. E così oggi abbiamo, sono come i carabinieri, uno tiene i tasti e l'altro li alza. Vabbè. Salutiamo tutti i carabinieri d'Italia, un grande abbraccio, vogliamo a voi tutti un gran bene. E possiamo aprire il nostro Parlamento. Che state facendo, cari italiani? Potete anche dircelo al 349-238-6666. Forza, forza, dai, su la Claire, sulla Serranda. Il caffè volentieri a tutti quanti. Un grande saluto da e a Nicole Minetti, che offre sempre il caffè ormai da anni. E allora, ieri sono arrivati tanti messaggi a dirci: oh, meno male che ieri, cioè quando l'abbiamo chiamata, era spento il telefono, così non la chiamerete più. E infatti saluto Vladimir Luxuria, buongiorno e ben svegliato. Buongiorno. È arrivato ieri il messaggio che ti abbiamo mandato in diretta, io e Federico Novella qua. È arrivato e oggi ho fatto una veglia di penitenza proprio in attesa della trasmissione. Va bene, va bene, sveglia dalle 4:30 per non. Va bene, va bene. E ieri poi mi sono arrivati dei messaggi a dire: per favore non chiamare più Aurora Lussana, che ieri deve averne combinato qualcosa da Lilli Gruber, non lo so. E infatti Aurora Lussana, buongiorno, ecco. Di cosa hai combinato? Vabbè, allora io sono qua per far sì che vengano espiati tutti i peccati, sono il cilicio dei tuoi ascoltatori. Se la Luxuria fa la veglia di preghiera, vedi, oggi. Vabbè. Cosa hai combinato? Cosa hai detto? Dice, pare che avrai detto qualcosa su Marine Le Pen, grande statista, liberatrice dal crimine euro e dall'Europa, che ci opprime, che ci distrugge, queste cose qua avrei detto, no? No, sono rimasti un po' tutti turbati dal fatto che ho parlato di movimenti sovranisti che in Europa si devono unire in un fronte unico popolare, da Wilders col suo partito delle libertà che nei Paesi Bassi insomma sta raccogliendo molti consensi, Frans Belang, Fiam Mingeles, Pio Di Strache, la Marine Le Pen, tutta gente che ho avuto modo di conoscere al congresso della Lega già l'anno scorso, movimenti, ripeto, sovranisti. Identitari, autonomisti o nazionalisti, ma tutti uniti contro questa Europa superstato. Tutti un po' isti, tutti un po' isti, un po' isti. Non so, Vladimir Luxuria, se fa rima anche, tutti un po' troppo isti questi movimenti. Vabbè, ha preso voti la Marine Le Pen, come il Renzi, certo, che governa con una cordina di palazzo. Io rispetto tutte le persone che prendono i voti. Eccolo lì. Se prende i voti, diventa sindaco, è buon per lei. Questo dobbiamo subito chiarirlo, intanto. No, dobbiamo subito chiarirlo. L'assist di Aurora Lussana. Vladimir Luxuria, è vero che ti candidi a sindaco a Foggia? No, non è vero. Ah, non è vero. E che hanno inventato? No, non, qualcuno me l'ha chiesto, ma non. Sai, fare il sindaco è un impegno enorme, gravoso, è anche più impegnativo di fare il parlamentare, però non lo si può fare part time, standotene nella tua città e poi al telefono delegando tutto a un vice sindaco. Certo. Lo fai, lo devi fare al 100%. Ma chi te l'ha chiesto? Vendola. Guarda, sono arrivate proposte da varie parti, mettiamola così. Beh, insomma, che adesso varie parti, non so, Fratelli d'Italia non te l'avrà chiesto. No, non me l'ha chiesto. Forza Italia non te l'avrà chiesto. No, lasciamo perdere. Tanto guarda, non avverrà la candidatura. Allora, prima dell'Europa, allora, due cose. Sapete cosa ha fatto ieri Renzi, che era lì all'Aia, di fronte alla cena regale, cena irreale anche, visto che i reali d'Olanda ospitavano tutti, ha detto, io torno a lavorare in Italia, c'ho da fare. Ha preso, ha alzato e se n'è andato. Ha detto: torno in Italia perché devo lavorare contro tutti gli uccellacci del malaugurio. Sarà bello smentirli. E quindi è tornato in Italia. E Aurora ride. Insomma, vabbè. Vogliamo iniziare da qui. Vladimir Luxura, ti piace Renzi? Si sta muovendo bene? Beh, intanto siamo. Da quanto tempo sta lì? Insomma, non è da moltissimo tempo. Un mesetto, quindi... quant'è? Oh. Un mese. Aspettiamo un po', perché insomma io gli voglio dare tutto il credito possibile e immaginabile, perché veramente credo che i problemi siano così tanti che insomma bisogna avere la possibilità almeno di sperare. Meno di sperare. Ti inquieta allora quello che sta succedendo in Europa? Visto che Aurora Lussana gongola qui, no? Con tutti i movimenti da Marine Le Pen. E allora io sicuramente ci sarà un grande voto di protesta per quello che riguarda l'euroscetticismo. Credo che dall'Italia non prenderà molti più voti Grillo, suppongo, della Lega, ad esempio, da questo punto di vista, perché ha persino la Lega Nord, diciamo, che è stata spesso votata anche nello stesso Veneto, è considerato un po' parte del sistema e comunque molti sono rimasti delusi dal voto e poi dall'operato degli stessi parlamentari della Lega. Quindi c'è comunque una scontentezza generale e uno sconforto. Poi pensare che insomma i problemi si risolvono andando via dall'euro oppure proclamando l'indipendenza del Veneto, che adesso non so se si ritornerà al trattato di Campoforme, si chiederà di ritornare in Austria, oppure dove andranno, ma insomma credo che i problemi siano reali, le soluzioni a volte sono grottesche. Allora, siete del sistema, cara Aurora, hai sentito? Siete anche voi del sistema. Tra l'altro c'è chi mi scrive alla risata della iena, Aurora Lussana, non lo so perché. Ma fatevi una vita, che stare a pensare a come ridere Aurora Lussana. Dai, Luca, sei la più forte. Cos'è che stai bofonchiando in bergamasco stretto? No, ma perché tanti social network sono una sputacchiera. Comunque, secondo me un'altra Europa è possibile. L'Europarlamento che uscirà dal voto del 25 di maggio, si vota nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23, poi comincia subito lo spoglio, quindi si voterà solo nel giorno della domenica 25. Io mi auguro che dal 26 ci sia un Europarlamento che possa ridisegnare la nostra Europa. Ma sì, ma un'altra Europa magari è possibile, ma va bene, ma si può discutere tutto, ma... Sempre Europa è, però. Sì, esatto. Cioè, cos'è l'Africa? No, ho capito, ma quello che volete voi è via dall'euro, l'euro criminale, è uno schifo, cioè... Ma la moneta unica, allora, lo sai cosa dice Alexis Tsipras, che dovrebbe piacere a Luxuria, non certo a me, che la moneta unica ha creato delle difformità di sistema. È totalmente inadeguata per le tante plurali economie europee, quindi c'era un pluralismo che loro hanno inventato, c'è stata una reduxio ad unum imperialista, hanno schiacciato le identità, le regioni, il vitalismo di questa Europa. La Scozia il 18 di settembre vota per diventare, su 5 milioni di scozzesi, come il Veneto. Io sono per l'autodeterminazione dei popoli, perché c'è il diritto di divorziare se c'è un matrimonio di interesse, e il Veneto mi sa che purtroppo è incastrato in un matrimonio di interesse, deve fare quello che paga e mantiene quelli che non lavorano, la mogliettina che non vuole lavorare. Quindi secondo me, se esiste il diritto di divorziare fra gli individui, può esistere il diritto di separazione consensuale. Sì, mandate con, sì, mandate con le penne, andate con le penne per prendere i voti. C'è una forza di destra che non ha nulla a che fare con la Lega, se non l'anti-europeismo in questo momento. Al Parlamento europeo si fanno gli eurogruppi, se non sei in un gruppo non conti niente, quindi i segretini arrivano in Europa. Allora l'Italia elegge 73 eurodeputati, mettiamo a caso che fanno anche 70 eurodeputati grillini, ok? Se non si associano ad altri gruppi, fanno un gruppo loro da soli contro il mondo, cioè deve esserci anche una linea comune all'interno dell'Europarlamento, perché questa volta si va a votare il Presidente della Commissione Europea. Sì, sì. No, Grillo vabbè. Che cosa vota? Vabbè, Grillo ci ha detto vanno da soli. E comunque Vladimir, c'è da guardare con preoccupazione, perché oggi un sondaggio sul Corriere dice potrebbe esserci un Parlamento Europeo dove un terzo dei deputati votati, che verranno eletti, sono anti-europei, cioè secondo i sondaggi, quindi voglio dire è una bella gatta da pelare questa. Sì, è sicuramente un allarme importante che deve servire sia a noi, ma io credo che debba servire anche alla Merkel, nel senso che io credo che tutte quelle persone che hanno improntato le politiche economiche all'austerità, al sacrificio, al potere del più forte, devono cominciare a pensare che tutto questo alla fine può minare la stessa stabilità dell'Unione Europea. Certo, questo di fatto c'è. Comunque vogliamo sentire Salvini, capo supremo di Aurora Lussana. Salvini, il capo indiscusso, il leader illuminato. Fermami se sto esagerando un po' troppo. Vai avanti. Il leader indiscusso, supremo e immarcescibile della Lega Nord. Salvini. Noi sì, abbiamo fatto un accordo con Marine Le Pen e ci alleeremo per un'altra Europa. Però è un buon segnale per l'Europa, è un buon segnale per quelli che non vogliono morire di euro. Non vogliono morire di euro. Tra l'altro poi Salvini, per una questione di Expo, se l'è presa anche col sindaco di Milano Pisapia. Sentite questa, eh? Ma dimettiti, Moretti. Se hai un minimo di dignità, domani ti dimetti. No, questo quello è che piglia 850 mila euro. Questo è contro Moretti, no? Contro Pisapia. Beh, ce l'ha anche con Moretti. Ieri Salvini tuonava contro tutti, contro Pisapia. Se Pisapia non è capace, non lo costringe il medico a fare il sindaco, può fare l'avvocato, può andare in bicicletta, può andare per funghi, fare il sindaco di Milano è una cosa difficile. Andare per funghi, Aurora Lussana! Non ce lo vedo, andare per funghi Pisapia! Per funghi, Vladimir Luxuria, te lo vedi Pisapia a cercare di sti tempi che cosa ci sono? Niente, non no, ci sono funghi. Non c'è niente. Vabbè, che deve fare? Vabbè, Posso chiedere quale moneta batteranno? Non lo so, infatti, questo mi incuriosisce effettivamente. Usciamo dall'euro e c'è la lira, no? Aurora. Allora, ripeto, la Scozia il 18 di settembre vota per la sua autodeterminazione. Ho capito la Scozia. Non sanno ancora se tengono la sterlina o l'euro, è vero o no, sì. È così. L'Europa, io mi auguro che accolga tutti i nuovi stati indipendenti, ripeto, dalla Scozia alla Catalogna. Accettiamo la sfida della pluralità. Allora, sì, ma la moneta qual è? La lira? Allora, cioè, ma lo decideranno gli europei? Ma io lo devo decidere, ma scusami. Quindi gli europei decideranno che tipo di moneta... Cioè gli italiani... Allora, abbiamo votato per entrare nella moneta unica, sì. No, ci sono stati dei trattati internazionali sui quali è vietato esprimersi con referendum consultivi popolari, ci hanno imposto l'euro, hanno imposto i trattati, dal Six Pact al Fiscal Pact, ma allora... Quando ci sarà un'operazione dal basso democratica, di adesione spontanea attraverso anche un'inclusione dei popoli, tutte le scelte saranno condivise. Quando ci sono le cancellerie straniere, la banca centrale e queste elite, perché sono elite burocratiche, euriste, dogmatiche, l'ortodossia eurista, questo è il mio pericolo. Penso che una visione meno ortodossa, a meno che voi pensiate che siamo nel mondo migliore possibile. Ma no, ma non è il mondo, se la moneta padana, la moneta veneta, non, lo decideranno gli europei, non lo deciderò né io. Cioè gli europei, in questo caso i veneti lo decideranno nel caso nel caso dei veneti, sì. Sì, certo. Sì, sì. Cioè, ognuno però, si deciderà la moneta. La sovranità monetaria è, secondo me, fondamentale. Non so, se, per... se ci dividiamo, per esempio, Vladimir Luxure, intanto Foggia dove starebbe? Nella Apulia? Non lo so, cosa... Ma sì, sai, sai poi da... abbiamo avuto, già avuto un periodo in Italia prima del risorgimento, sì, in cui c'erano tantissimi staterelli, no? Dove dovevi passare delle frontiere per andare da uno staterello all'altro, in ogni stato c'era la sua moneta. Non lo so, c'è chi vuole uscire dall'Europa per ritornare al Medioevo, non, ognuno con la sua moneta locale, ma mi sembra un po', ripeto, no, i problemi sono veri, le soluzioni, ripeto, sono un po'... No, che il problema ci sia, che ci sia un'Europa, un'Europa ingiusta, questa sì, questo è fuori di dubbio. Il problema c'è, però secondo me bisogna stare in Europa per cambiarla, sì, cioè l'idea che te ne vai mi sembra, non lo so. Mi beh, a dire la verità, a dire la verità, a dire la verità, adesso stanno entrando in Europa e nell'Europarlamento in tanti anti-europeisti, forse per cambiarla lì dentro. Intanto, dopo il traffico, ripartiamo da qui. Insomma, è bello sapere che Barack Obama ci stima tantissimo. Sapete cosa ha detto a Renzi? Intanto l'ha guardato e gli ha detto: anch'io avevo i capelli neri quando sono entrato alla Casa Bianca come te. E adesso Obama non ne ha proprio tantissimi di capelli neri. E poi ha detto, come scrive il Quotidiano Nazionale, a pagina 3, visto che sta arrivando in Italia, che bello, non vedo l'ora, giovedì spaghettata al Colosseo e cibo italiano. È sempre bello sapere che ci stimano per la nostra grande autorevolezza politica, insomma. 24 mattino. Brunetta dice che Berlusconi è come il marchio della Coca-Cola. Non importa che sia Pier Silvio, Marina, Barbara oppure il nonno in cariola. Evviva gli elettori che se mannano tutto giù per la gola. Come ha detto Renzi con la CGIL, vorrei dire la stessa cosa a Moretti. Se ne va, ce ne faremo una ragione, caro Moretti. 800.000 euro non sono abbastanza, vergognati. Grande Renzi, vai avanti. Una semplice domanda, una domanda che mi sono rivolto spesso in questi ultimi periodi. Ma noi abbiamo davvero il paese che ci meritiamo? La mia risposta è sì. Caro Renzi, per quanto riguarda la pensione di tua nonna, fa come vuoi, ma con la mia reversibilità, pagata da mio marito per più di 45 anni e goduta solo 5 purtroppo, ci mantengo nipoti e figli. Pensa ai vitalizi di chi ha versato solo 5 anni e prolunga questi versamenti come per i comuni mortali. Dai, dimostra che hai le palle. Alle irricevibili e irritanti risposte di Moretti, fagli sapere che noi pendolari stiamo viaggiando ancora nei carri bestiali e se lui non sta bene può tornare tranquillamente a casa, non col Frecciarossa o con i treni di prima classe, ma su un morbido cuscino di pedate in culo. Quando l'uomo politico ha la bocca che fa gli stessi movimenti dell'anno culo, come Casini, Rotondi, Renzi, c'è da aspettarsi solo me, puntini, puntini. Ma che poeti oggi i nostri ascoltatori. Allora, Aurora Lussana, Moretti è la persona più amata in questo momento, ma voglio dire, ha detto che i manager devono essere pagati, insomma, ha detto qualcosa di scomodo e chiaramente subito è stato impallinato dalle persone. Sentite, secondo Lupi, il ministro ai trasporti ha detto addirittura una stupidata, sentite Lupi. Voglio dire, quando uno forse sbaglia e fa un'uscita come tante volte sbagliamo noi politici, noi che rappresentiamo le istituzioni, diciamo una stupidata, basta dire che abbiamo detto una stupidata e finisce tutto lì e non montarci lì un caso. Vabbè. Allora, è una stupidata quella di Moretti, Aurora Lussana? Ma sì, lui alla fine però vedo che l'ha anche un po' spaventato, no, nel senso è stato molto più sprezzante con i suoi, tipo con Fassina, no, Renzi, poi c'hai uno come Moretti che si esprime così, è un'insubordinazione, lui comunque un manager di Stato e se non si trova bene nel pubblico può andare nel privato, io non so quanto guadagnerebbe, mi auguro di guadagnare milioni e milioni di euro, ci mancherebbe, però non so se va nel privato cosa ci guadagna il Moretti, quindi alla fine più che Moretti mi ha molto insospettito l'atteggiamento di Renzi. E perché? In che senso? Che perché ha quasi paura di andare contro Moretti. Moretti è comunque un uomo potente, insomma. Ah, per questo. Vabbè, adesso. Non so, Vladimir, il senatore dovrebbe intervenire in questi casi, invece. Che c'hai, Vladimir? No, no, su questo sono... Beh, è da tempo che si parla di un tetto agli stipendi altissimi dei manager pubblici, perché ci sono i dipendenti pubblici che guadagnano quello che guadagnano. Che ci sarebbe peraltro poi, per legge. Prima erano solo gli sporchi comunisti che dicevano che questi erano stipendi troppo alti. Adesso Renzi dice una cosa, ha messo questa cosa all'attenzione di tutti, quindi è stato Moretti che in qualche modo si è piccato, si è risentito. Mm. Quindi io non ci vedo nulla di male in un periodo in cui, insomma, le cose vanno come vanno e si chiede un sacrificio agli italiani, bisogna chiedere innanzitutto a chi può permettersi di farli questi sacrifici. Ma poi al di là del sacrificio, ma c'è una legge, un decreto voluto dal governo Monti che impone un tetto? Voglio dire, ma anche se non hanno mai fatto il regolamento. Ho capito, appunto, ma voglio dire il famoso regolamento attuativo, il decreto attuativo, ma voglio dire, se c'è un decreto legge, in teoria banalmente la discussione è finita, no? Bisogna chiuderla lì perché il decreto c'è. Sentite ieri Sgarbi era Piazza Pulita. Non voglio né l'euro né pagare le tasse per dare i soldi a quelli lì. Non pago una lira per dare i soldi alla Consulta. Non pago una lira, non li voglio dare. Dare una lira a Moretti, a Scaroni, non di più. Odio Conti. Io Conti lo arresterei, perché uno che mette le paleoliche in tutta Italia. Odio Conti delle Sgarbi, è partito, basta. Da nessuno, niente, basta, soldi a nessuno. Va bene, è sempre un nostro grande momento, Vladimir Luxuria. Sai che questo è un momento importante, perché Aurora Lussana cosa fa? Si sveglia da buona padana alle 6:30. Che ora ti svegli? 5:30 e si cucina la cena, perché poi dopo si lamenta, dice torna a casa la sera, sono stanca e mi cucino già. Per cui stamattina ti sei svegliata alle 5:30 e? Questa volta mi va bene, perché un mio caro amico che c'ha un pastificio artigianale mi ha detto: guarda, ti regalo un po' di casoncelle alla bergamasca, mangia quelli. Ah, vabbè, insomma, quindi non stai cucinando in questo momento, non, sta, no, non oggi stai mi va di cucinando. Oggi mi va di lusso, casoncelli per tutti, quindi no, solo... Ho solo preparato poi il burro fuso con la salsa e la pancetta, così stasera arrivo e c'è solo... Il burro fuso preparato alle 6:50 è mangiato alle 21. Aurora si fa prima a fonderlo, prima di mangiare, appunto, che a riscaldare il burro già fuso. Madonna, ma com'è intollerante! Ma è intollerante, non sai l'ABC della cucina! Devi discriminare le tradizioni agroalimentari. Ma che quelli? Vedi, quelli che obbediscono le tradizioni, il burro lo fondono lì. Infatti, che tradizione è fondere il burro 8 ore prima? Perché va fuso con la salvia, con la pancetta, poi ci mette anche lui. Ma scusa, dai, su, Aurora. La civiltà dell'olio, noi diceva meglio la civiltà del burro. Ce lo deve dire l'Europa come cucinare. Ne fa una questione culturale anche qui. La mattina lasciateci col buon profumo del caffè. L'idea che mi sveglio la mattina con il caso Celli alla bergamasca. Dico, no, un po' pesantino, vabbè, dai. La scorsa volta credo che abbia fatto, stesse facendo il coniglio, c'era Massimo Mario Dinolfi che ha detto: io gli darei una capocciata una che mi sveglia col coniglio. E vabbè, insomma, comunque casoncelli alla bergamasca. Però se effettivamente il burro magari fondilo all'ultimo, perché insomma non è questione di tradizione. No, ma perché preparo già tutto, così arrivo scaldo e basta. No, ho capito, ma che schifo il burro fuso 12 ore fa, insomma, quando lo mangerai stasera? Vabbè, 12 ore prima lei fonde il burro, che devi fare? Mi devo fermare qui. Lungimirante, guarda il futuro. Ringrazio Aurora Lussana della Padania e Vladimir Luxuria, grazie per essere stati con noi, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, razza di debosciati, alle 7:17 minuti. E voi che state facendo nelle vostre faccende quotidiane prima di andare a lavorare, a lavorare? Allora, cari italiani, oggi sappiate che se siete in treno, state prendendo il treno, state prendendo i mezzi pubblici, torneremo a occuparci di questo tema, perché il trasporto pubblico locale, nell'inevitabile arrivo di tagli per recuperare la spesa, per recuperare sulla spesa la vicenda di Carlo Cottarelli, la revisione della spesa, il taglio di tutte quelle che sono le uscite dello Stato, rischia di finire il trasporto pubblico locale sotto una mannaia di nuovi tagli, con vari articoli che raccontano come si possa ovviare a questo. Con che cosa? Il più classico dei metodi: l'aumento delle tariffe. Vi aumentano i biglietti, cari pendolari? È una domanda, non è un'affermazione, perché di questo parla proprio nei giorni in cui c'è la polemica, lo sapete, per lo stipendio dei manager pubblici, primo fra tutti l'amministratore delegato di Trenitalia Moretti. Insomma, parleremo di questo, avremo ospite il professor Marco Ponti, che insegna e si occupa di trasporti al Politecnico di Milano, docente di economia dei trasporti. Avremo Carlo Rienzi del Codacons, poi cercheremo di capire, a proposito di questo tetto che viene messo e dovrebbe essere messo sui 300.000 euro per i manager pubblici, e invece i manager alla Camera e al Senato, e lì sappiamo che è una partita diversa, c'è sempre questa autonomia e c'è il tentativo, come raccontava anche ieri il Messaggero, di contrastare le 20 sigle sindacali dei circa 2.500 dipendenti di Camera e Senato. Avremo ospite la vicepresidente della Camera, Marina Sereni, che si sta occupando di questo dossier non facile, per cercare di convincere di applicare i tetti anche lì. Vertici di Camera e Senato che arrivano a guadagnare fino a 400 e rotti mila euro. Questo è il menù del giorno, ne parleremo più tardi, ora la lettura dei giornali. In questo martedì 25 marzo molti quotidiani aprono con gli esteri in primo piano, soprattutto l'avete sentito, la decisione di escludere la Russia dal G8, Obama, o meglio sospenderla per il momento. Obama, G8 senza Putin, borse in trincea sulla crisi, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere, Russia punita, sospeso il G8, Corriere della Sera. Per Repubblica, Obama, Russia fuori dal G8. Tra l'altro il Giorno titola: arriva Obama, sapete che Obama è in arrivo in Italia nei prossimi giorni. Per La Stampa, il voto francese allarma l'Italia, l'Unione Europea rifletta, e dunque il dopo vittoria al primo turno alle amministrative, o successo in tante città, del fronte nazionale di Marine Le Pen. Una Marine tira l'altra. Questo è il titolo di Libero che accomuna Marine Le Pen e Marina Berlusconi. E il Libero la vede così, questa lettura francese: se Berlusconi ci desse un erede con l'apostrofo, e dunque un erede femmina, in questo caso Marina Berlusconi, il tentativo ancora di coinvolgere Marina Berlusconi per Libero. Il Fatto Quotidiano: rivolta contro l'euro, questo è il titolo che prende spunto dal successo in Francia di Marine Le Pen. L'Unità: l'Europa ci lascia Le Pen. Mentre Il Manifesto: un brutto noir, e c'è la foto di Hollande, presidente francese, dunque la situazione brutta per Il Manifesto con questa vittoria di Marine Le Pen. Per Il Messaggero invece ci si concentra sulle tasse italiane, il titolo di prima pagina è: sgravi IRPEF a tetto più basso, mentre Il Giornale: bugie di Stato, Renzi non vuol pagare, il Premier sceglie di saldare in ritardo i debiti con le imprese, scatta la multa da 800 milioni, questo è il titolo del Giornale. Come detto, la vicenda francese, certamente degli strascichi sui giornali, molto molto imponenti. Partirei da qui. Le Pen, appello a tutti gli euroscettici, questo è il titolo del Sole 24 Ore con reportage di Marco Mustanè da Parigi. La fine del bipolarismo, uniamoci per difendere gli stati-nazione alle europee di maggio. Ha fatto un appello a tutte le forze euroscettiche, a tutte le forze anti-europee. Marine Le Pen, tra l'altro, racconta Alessandro Sallusti, direttore del giornale, quando l'ha incontrata un mese fa. Nell'editoriale di prima pagina, non solo Le Pen, rifare l'Europa è una battaglia liberale, scrive Alessandro Sallusti. Le Pen, durante una cena a Parigi un mese fa, la incontrai, le chiedevo dei sondaggi, ma lei mi stoppò. Sono molto buoni, certo, ma la novità è un'altra. Quale? Chiesi incuriosito. Vedi dove siamo? Siamo in un bel ristorante in centro a Parigi. Guardati intorno, vedi quanta bella gente. Pensi che siano tutti d'estrema destra? No, di certo, risposi dopo aver dato uno sguardo ai commensali. Ecco, la novità è che solo un anno fa io non avrei potuto cenare qui. Alcuni mi avrebbero insultata, altri se ne sarebbero andati per protesta, disgustati dal fatto di dover cenare al mio fianco. Invece guarda oggi, nessuno fiata, anzi in molti mi fanno un sorriso di saluto. Non sono più la fascista, mi vedono come l'unica speranza di salvezza dall'Europa predona. Così racconta Sallusti, un mese fa mi diceva a cena in un ristorante parigino Marine Le Pen, che ora passa l'incasso di voti. Tra l'altro tutti i giornali raccontano della conferenza stampa fatta all'indomani della vittoria, dopo aver portato 315 sindaci del Fronte Nazionale ai ballottaggi che ci saranno domenica. E fa questo appello Marine Le Pen, come racconta Il Giorno a pagina 7, a tutti gli euroscettici. E c'è anche una domanda sul Movimento 5 Stelle, che in Italia è certamente euroscettico, ma ha già fatto sapere: noi non ci alleeremo con Marine Le Pen. Francamente non capisco l'odio di Grillo nei miei confronti, risponde Marine Le Pen, visto che su molti temi i nostri partiti la pensano allo stesso modo, in particolare la lotta contro l'euro. Diversamente da noi, Grillo si limita a contestare, mentre sarebbe il momento di assumersi ognuno le proprie responsabilità. Chi invece aderisce con convinzione a questo appello è la Lega. Il segretario Salvini fa un'intervista a Libero: noi al fianco della Le Pen. Pagina 5, intervistato da Francesco Specchia, Matteo Salvini dice: per noi è un sogno e per gli altri un incubo. Con Marine Le Pen stiamo lavorando insieme, condividiamo politiche, programmi, volantini sulle terre d'Europa, sul fronte anti-euro. Ci ha menato il torrone per mesi con la primavera araba. Direi che questa è una primavera d'Europa. È la nostra battaglia in chiave anti-euro, essenziale il recupero della sovranità della nostra moneta per gli imprenditori, per i 30.000 giovani che non hanno nessuna voglia di morire nei call center a 4 euro l'ora. E, insomma, Salvini sposa con la Lega in pieno questa battaglia anti-europeista. E Marine Le Pen, tra l'altro, Repubblica con Andrea Bonanni a pagina 6 racconta come i sondaggi diano un terzo del nuovo Parlamento europeo che verrà eletto il 25 maggio da tutti i cittadini europei, un terzo del Parlamento europeo rischia di finire in mano agli anti-europei. Questo è il titolo di Repubblica. La vittoria alle destre al primo turno delle amministrative francesi è un altro segnale dello sconvolgimento politico che si preannuncia in vista delle europee di maggio, scrive Repubblica. Un terremoto la cui linea di faglia non seguirà più la tradizionale divisione destra-sinistra, ma quella tra due nuove categorie della politica, pro-euro e anti-euro. Per esempio, gli inglesi dello UK Independence Party si aspettano almeno 20 eurodeputati su 73 che ne deve eleggere la Gran Bretagna. In Germania i Piraten e Alternative für Deutschland potrebbero eleggere 9 o 10 parlamentari. In Francia i lepenisti potrebbero ottenere 18 seggi rispetto ai 3 che avevano. In Italia il Movimento 5 Stelle è accreditato di una ventina di deputati su 73, e così via anche le forze di destra in Belgio, in Olanda, i neonazisti in Grecia, la destra antieuropea in Polonia, in Repubblica Ceca. Insomma, i sondaggi, ovviamente poi non resterà che attendere il 25 maggio, i sondaggi danno un terzo di forze antieuropee, soprattutto di destra, nel prossimo Europarlamento. anche il Corriere dedica due pagine di analisi a questo voto con la chiamata alle armi di Marine Le Pen: euroscettici d'Europa, uniamoci. Come detto, è invece scettico di questa alleanza al Movimento 5 Stelle il vicepresidente alla Camera Luigi Di Maio del Movimento di Beppe Grillo. Fa un'intervista al Fatto Quotidiano a pagina 4 e dice a Luca De Carolis: no alla Le Pen, noi 5 Stelle siamo democratici, non raccoglieremo questo appello, siamo un movimento responsabile nato dal basso, mentre il Front National è un partito che si muove con le dinamiche della vecchia politica e noi siamo piuttosto allergici ai partiti. Consulteremo i nostri iscritti sul web per decidere se iscriverci a un gruppo preesistente o crearne uno nuovo, per cui comunque servono 29 deputati di 7 paesi diversi. Alla domanda: il Movimento 5 Stelle è anti-europeista? Risponde Luigi Di Maio: questa è una banalizzazione, noi siamo contro questa Unione Europea tenuta assieme dagli interessi delle banche e a favore di un'Europa come una comunità, vogliamo ridiscutere il fiscal compact, combattere le grandi lobby e promuovere la solidarietà tra stati. Questo Luigi Di Maio, dunque il Movimento 5 Stelle. Vabbè, l'Europa ci guarda, il mondo ci guarda, non solo l'Europa. È in arrivo Barack Obama e l'attualità internazionale oggi è certamente preminente sui giornali, e da qui ripartiremo anche dopo la pubblicità, soprattutto con Obama che sta arrivando in Italia. E intanto ieri ha incontrato Renzi e gli ha detto: ah, anch'io avevo i capelli neri come te quando sono entrato alla Casa Bianca. Adesso invece, se vedete le immagini di Obama, francamente i capelli bianchi abbondano sulla testa del presidente americano. E poi un presidente americano che ha detto: ah, giovedì vengo in Italia, non vedo l'ora di un bel cibo italiano. Vabbè, insomma, come al solito. Siamo famosi anche per questo, adesso senza batterci troppo, siamo famosi anche per il cibo, dovremmo andarne orgogliosi. Alessandro Milan e Humphrey Bogart per l'informazione. Humphrey Bogart, c'era un giocatore del Milan, Bogart, Humphrey Bogart, grazie signora, un abbraccione immenso, Humphrey Bogart dell'informazione. Va bene, che dire? Intanto, per continuare l'attualità internazionale, certamente il centro del mondo ieri si è spostato all'Aia, dove c'era la cena dei leader del G7, c'era anche Matteo Renzi, e tra poco vedremo, lui però se n'è andato prima della cena di gala. Vedremo perché, ma al centro c'è Obama e soprattutto gli Stati Uniti, che, come racconta Mario Platero sul Sole 24 Ore, l'avete sentito anche nel giornale radio, ha annunciato nella dichiarazione, dopo una riunione straordinaria del gruppo senza precedenti, la decisione storica per respiro e portata delle dichiarazioni, il fatto di tenere fuori la Russia dal G8, 3 interventi punitivi, isolamento, nuove possibili sanzioni, aiuti urgenti e sostanziosi dell'Ucraina. Non è stata ancora decretata l'espulsione della Russia, come aveva anticipato fonti di stampa, ma la sospensione a oltranza, il che vuol dire, se la Russia rientra un po' dai propri propositi, può rientrare nel G8, però al momento c'è appunto la sospensione. Tra l'altro, il presidente americano Obama, che è venuto all'Aia ed è atteso anche in settimana in Italia, si è fatto anticipare da un'intervista a un quotidiano olandese, il De Volkskrant. L'intervista è pubblicata da Repubblica, pagina 2 e 3, l'intervista di Arie Eichaut, il giornalista. Obama minaccia il Cremlino: continueremo con le sanzioni, l'Europa non è un campo di battaglia. Per le ragioni che ha appena spiegato, noi gli Stati Uniti, ha detto Obama, assieme a tanti altri paesi del mondo, abbiamo condannato l'intervento militare russo in Ucraina, un intervento che è completamente inaccettabile. È fondamentale che la Russia capisca che la comunità internazionale non si piega di fronte alla violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. E c'è dell'altro. Se la Russia, insiste Obama, continuerà su questa strada, le misure punitive, la pressione sull'economia russa e l'isolamento di diplomatico dovranno e potranno soltanto aumentare. Ecco, è davanti a questa scelta fondamentale che la Russia si trova in questi giorni. Obama, che poi ha ribadito il rapporto con gli alleati partner europei, la pietra miliare del nostro impegno nel mondo, ce lo mostrano la nostra missione comune in Afghanistan, i nostri sforzi diplomatici comuni su Iran e Siria. Tuttavia, condividere sicurezza e benessere significa anche condividere le responsabilità. E vabbè, parla di tanti altri temi Obama in questa intervista a un giornale olandese che viene riportato oggi da Repubblica. A proposito di Ucraina, però, è molto interessante anche l'intervista ai possibili sviluppi sugli approvvigionamenti energetici dell'Italia, e quindi l'intervista a Paolo Scaroni, l'amministratore delegato dell'ENI. Daniele Manca lo intervista per il Corriere della Sera, pagina 4. Europa in ordine sparso sull'energia, così non sarà mai una grande potenza. Questo è l'ammonimento di Scaroni, che dice: sull'energia oggi, oltre al problema dei costi, abbiamo un potenziale problema di sicurezza degli approvvigionamenti. È vero per alcuni stati molto più che per altri. Pensi, Spagna, Portogallo e Gran Bretagna non comprano gas russo, Francia, Italia e Olanda lo acquistano, ma hanno anche altri paesi fornitori. Altre nazioni invece, come Austria, Polonia, Bulgaria, senza il gas di Mosca sono al freddo dall'oggi al domani. E tra l'altro la soluzione, dice, della questione russa, beh, Putin, dice Scaroni, si sta muovendo per proteggere la popolazione russa, dice lui. Io non voglio fare valutazioni politiche che non mi appartengono, ma Putin evidentemente non poteva permettersi di perdere uno dei suoi unici 5 porti con un pescaggio superiore ai 14 metri, in grado quindi di ospitare la marina da guerra. E poi la domanda clou è questa: ma senta, in caso di sanzioni come faremo senza il gas russo? Non credo si arriverà tanto, risponde Scaroni. Comunque in Italia, a differenza di altri paesi, abbiamo diversificato le forniture, e se tutte le altre nazioni rispettassero i contratti potremmo fare a meno del gas russo. L'Algeria è uno dei nostri fornitori, il 4 aprile andrà al voto, ma la situazione è molto stabile. E poi c'è la Libia. Le nostre produzioni stanno andando bene, ma la situazione richiederà qualche anno per ristabilizzarsi definitivamente. Insomma, Scaroni guarda agli scenari europei e mondiali, mediterranei europei, per quel che riguarda l'approvvigionamento di gas italiano. Gli italiani guardano la bolletta e sperano e pregano. E intanto dicevamo di Matteo Renzi che ieri, finito il G7, quando c'era la cena di gala con i reali d'Olanda che ospitavano tutti, ha preso e se n'è andato. Si è alzato e se n'è andato. Perché? Perché ho da lavorare in Italia. Questo è anche il titolo del Corriere della Sera. Renzi salta la cena con i big, ho da fare in Italia, torno ai dossier. E tra l'altro, congedandosi, si è lanciato in questa frase: smentirò gli uccellacci del malaugurio. C'è stato anche questo scambio di battute con Obama, no? Obama che gli ha detto appunto: ah, vedo che hai i capelli neri. Anch'io all'inizio, quando ho iniziato la mia avventura alla Casa Bianca, avevo i capelli neri. E poi giovedì ci vediamo in Italia, non vedo l'ora del cibo italiano. Ecco, vabbè. E tra l'altro, insomma, è un Renzi Turbo Renzi, no? Viene definito da qualcuno. Renzi sempre in movimento, no? Non ho tempo da perdere con la cena di gala, devo lavorare. È un Renzi che deve far vedere di essere sempre un passo avanti, sempre veloce sui dossier da studiare. Il prossimo è quello della revisione del Senato, ma soprattutto l'eterna battaglia contro i burocrati. Ancora su questo c'è un retroscena sul Corriere a pagina 5, il Premier pronto a giocarsi tutto nella guerra contro i mandarini. Lui per la verità li chiama i dinosauri. Ragazzi, dice ai suoi, scrive Maria Teresa Meli, sto lavorando giorno e notte per provare a uscire dalla palude e togliere a questi mandarini la possibilità di metterci bastoni tra le ruote, impedirci di fare la nostra rivoluzione, che sarà senza spargimenti di sangue, ma pur sempre una rivoluzione. E poi, questa frase ancora affidata ai suoi più stretti collaboratori, è più facile vincere il braccio di ferro con la potentissima cancelliera Angela Merkel che con certi dinosauri. Con chi ce l'abbia Renzi non si sa, forse c'entra la questione della riduzione degli stipendi dei manager di Stato. Sta di fatto che Massimo Villone oggi sul Manifesto scrive un articolo proprio su questo tema. Allora, chi è Massimo Villone? È stato un senatore del centro-sinistra, di sinistra, del PD. E tra l'altro con Cesare Salvi, altro senatore, scrisse Il costo della democrazia 2005-2007. Era un po' un antesignano della Casta, il libro che poi ebbe uno straordinario successo di Stella e Rizzo, cioè dall'interno Villone e Salvi, due senatori, scrissero tutti i mali dell'Italia e tutto quello che andava cambiato. Caro Premier, oggi scrive Villone in prima sul Manifesto, prepara la corazza. L'uscita di Matteo Renzi sui tagli agli stipendi dei super manager pubblici piace. Le proteste erano prevedibili, corredate dagli usuali argomenti e qualche arroganza. Resisteranno a parole, dice il Premier, ma poi dovranno cedere. Faccia attenzione! Questa è gente al cui confronto la pelle di coccodrillo è un panetto di burro. E poi Villone racconta tutti i suoi tentativi insieme a Salvi di cercare di cambiare il sistema, di porre un tetto agli stipendi dei manager pubblici, le resistenze del Senato, le resistenze della Camera, e chiude proprio questo appello in prima pagina del Manifesto: non si arrenderanno, caro Renzi, senza combattere, quindi prepara a elmo e corazza, i peggiori nemici sono nella stanza accanto alla tua. Che è un po' come l'appello che risuona deflagrante dal Fatto Quotidiano in questa intervista a Francesco Rutelli, che dice: caro Renzi, attento ai leccaculo e diffida di loro. Voglio salutare Mauro Meazza, buongiorno caro Mauro. Buongiorno. Senti che linee telefoniche, perché sorridi? Sono i leccaculo. No, sorrido perché mi dai questi lanci sempre un po' discutibili, sempre no, però diciamo a volte mi colleghi. Ti collego, non ti volevo mica collegare ai leccaculo, non è no, che... No, no, per carità, però insomma, vabbè. Di fatto vengo dopo di loro. La consecuzio era quella. No, speriamo no, di no, non no. avere un legame qualsiasi. Comunque, No. Speriamo che la linea tenga, non ci siano interferenze, dipende anche un po' dagli argomenti dipende, che vengono affrontati. Esatto, no? esatto. Allora, no, ti voglio segnalare, oggi diamo con i suoi 24 ore il secondo degli 8 dizionari, è dedicato alla banca, quindi la tua banca, tutto quello che devi sapere per mettere da parte i tuoi 2 euro e sapere come comportarti allo sportello, cosa puoi chiedere, che cosa puoi ottenere, eccetera. Quindi ti raccomando, studialo perché è importante. Attentamente. Attentamente. E poi il fisco ha scoperto le famiglie di fatto, perché lo spieghiamo a proposito del nuovo redditometro che sai che incombe, e queste lettere che devono partire, stanno partendo, stanno arrivando. Praticamente andrà a vedere se per caso un nucleo familiare è composto da due persone non sposate, cosa che ahimè pare che possa accadere spesso, quindi non se ne erano accorti prima, ma adesso correggono il tiro anche sugli accertamenti redditometro. Tutti i particolari non in cronaca naturalmente, ma dove se no in norme e tributi. Ovviamente. Possiamo far vedere una cartina alla radio? Ah sì sì, noi. Alla radio, aspetta che la apro, eccola qua. Ecco, come no, vedete qui sulla destra c'è una bella cartina, sì? Sulle aree di disoccupazione. La vediamo tutti. La stiamo vedendo tutti, eccola, no? Qua, sì. Ecco, a pagina 4, a proposito, sì? Del voto francese, da dove si ricava appunto, dove la disoccupazione e la diminuzione di reddito morde di più nelle aree per singolo paese. Come si vede qui sulla sinistra, sì. Come si vede nella cartina, appunto, no? Chiaramente emerge la cartina. Beh, un invito a tutti gli ascoltatori a guardarci fuori dallo scherzo, perché ci sono delle difformità anche tra uno stesso paese, Italia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, proprio di reddito e anche di morsa della disoccupazione. Questo poi spiega magari più di qualche analisi o come qualche analisi o insieme a qualche analisi il voto francese. Certo. Ecco, volevo dirti poi, ricordati che a giugno dovresti pagare la IUC. Dovresti, quindi tieni da parte i 2 euro, però forse no, perché in realtà paghiamo solo un pezzetto, ma adesso è troppo complicato da spiegare. Leggi su norme e tributi tutto il pasticcio dei conti dei bilanci comunali, probabilmente si andrà al 31 luglio, insomma forse Junior paghiamo un pezzetto di yuk e poi si vedrà. Va bene. Non v'è certezza. Non v'è certezza in questo mondo. Però c'è una certezza, caro Mauro, nel salutarti. Sai come pare Obama abbia mostrato l'apprezzamento nei confronti dell'Italia, di Matteo Renzi, come titolo oggi il Quotidiano Nazionale a pagina 3? Ma mi sembra che c'entrino i capelli. No, i capelli, no? Quella l'abbiamo già detto, è questa. Ah. Oh, non vedo l'ora, giovedì, spaghettata al Colosseo. Ah, insomma, ecco. Questo è il titolo, insomma, grande apprezzamento come al solito, l'apprezzamento sulla tradizione. Sì, sulla tradizione italiana. Va bene. Io. Dai, dillo. Traffico. Toglietevi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Eccoci qua, sono qui tranquillo, caro ascoltatore, un grosso abbraccio. Allora, dicevamo, uno dei dossier per i quali Matteo Renzi ha abbandonato in fretta e furia, senza partecipare alla cena di gala, il G7 per tornare all'Italia, è quello del Senato, come racconta oggi il Corriere della Sera, a pagina 10, Monica Guerzoni, il nuovo Senato, spariscono i nominati, l'intesa è vicina, spunta però l'altro testo, eccolo qua, sempre l'altro testo, ma soprattutto all'interno dell'articolo, quello che mi interessa, sapete che qui si contano le settimane decisive in corso, la 47esima per la riforma elettorale e nonché per l'abolizione delle province, ma udite udite, cari ascoltatori, c'è un appuntamento che il Corriere dà come certo, eccolo qui, nel mezzo dell'articolo di Monica Guerzoni, l'abolizione delle province che sarà approvata domani alle 18. A questo punto non resta che mettere le sveglie, mettere gli orologi, puntare tutto domani alle 18, sempre che, eccolo lì subito, sempre che non riparta l'ostruzionismo dei grillini. Comunque, se tutto va bene, si apre una fase transitoria che vedrà le giunte, i presidenti uscenti in carica fino al 31 dicembre per l'ordinaria amministrazione. Toccherà poi alla riforma costituzionale con le modifiche al titolo quinto, abolire le vabbè. Mi sa che domani alle 18 potete fare il vostro aperitivo tranquilli, cari italiani. A proposito di difficoltà, c'è un signore, un deputato che è certamente in difficoltà, è Francantonio Genovese, deputato del Partito Democratico, per il quale i magistrati hanno chiesto l'arresto e per il quale la Camera si dovrà esprimere. Oggi fa un'intervista a Repubblica dopo un silenzio di qualche giorno, la prima volta che parla con Emanuele Lauria. L'intervista la trovate a pagina 13, l'accusa deve essersi messo 7 milioni di euro della formazione professionale siciliana in tasca sua e di società riconducibile ai suoi parenti. I soldi di cui si parla sono quelli di canoni pagati dagli enti di formazione regionali a società del mio gruppo per l'affitto di immobili e attrezzature, dice Francantonio Genovese, che ora e affronta la prova più difficile, va a Roma e dice il problema sarà distinguere il fuoco amico da quello nemico. E poi aggiunge: Dio sa quanto mi sia pentito di essermi occupato di formazione professionale alla luce dei problemi che ne sono derivati. Qualche errore l'avrà commesso, onorevole, guardi, più di uno. Chi non ne ha commessi nella vita in politica? Credo che un mondo delicato come quello della formazione professionale andava affrontato con maggior distacco. Ho capito che oggi va data un'impostazione diversa al modo di intendere la politica, più grandi temi e meno porta a porta. Ma in Sicilia, mi creda, è difficile. Beh, questo, dice Repubblica, lo diceva anche l'ex governatore Cuffaro, che oggi è in carcere. Cuffaro è sempre stato un avversario politico, ma è un uomo intelligente. Chi è intelligente riconosce i propri sbagli. Vabbè, onorevole, ma è stato uno sbaglio anche mettere nel conto della regione yacht, gioielli e personale domestico alle sue dipendenze? Ma quale conto della regione, risponde l'onorevole Genovese. Lo yacht intanto non c'è mai stato, parliamo di un gommone da 11 metri. E poi i gioielli erano gadget da 25-30 euro ciascuno, il personale serviva per la pulizia degli uffici, ma tutte queste spese sono a carico della Cale Service, società di servizi che vive di capitali privati. Vabbè, si difende così e dice: ho messo a disagio il PD con una grande vittoria e tante preferenze un anno fa, ora in qualche modo fa evocare un'idea di qualche rivalsa. bah, sarà rivalsa. Sta di fatto che Franco Antonio Genovese rischia con l'accusa di truffa e peculato, se la Camera dà il via libera, che si proceda all'arresto nei suoi confronti. Mentre in politica è in difficoltà, ogni giorno c'è la sua via crucis personale, Forza Italia e Silvio Berlusconi, che ieri ha riunito tutto lo staff, ha eletto il consiglio di presidenza, e poi c'è sempre questa domanda che aleggia ogni giorno, aleggerà tutti i giorni fino alle candidature ufficiali: si candida uno dei figli di Berlusconi, sì o no? I titoli sono: Berlusconi ferma i figli in politica, attacca i colonnelli e il cerchio magico dicendo vogliono l'eredità ma io non sono morto. Questo è il titolo per esempio di Repubblica, pagina 10. La verità è che i sondaggi, secondo i giornali, li sta facendo. Il sondaggio per esempio è sui figli, sull'indice di gradimento dei figli, e i sondaggi dicono che l'unico, o meglio l'unica, ad aver superato un tasso di gradimento superiore al 50% è la primogenita, dunque Marina Berlusconi, tanto che il Libero, il quotidiano Libero, mette da Marin a Marina. Perché non si prova con Marina? Tenta Libera ancora di insistere su questo. Voglio concentrarmi poi su quello che è la notizia diffusa ieri dai giornali, cioè della procura di Trani che indaga sui possibili collegamenti tra alcuni vaccini e l'insorgenza dell'autismo nei bambini. È una vicenda che è smentita non solo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, definita come bufala, ma tutto si basa su una ricerca inglese di un medico che è stato poi radiato e che è stato definito anche lui assolutamente antiscientifico nelle sue teorie strampalate. Eppure a Trani, come racconta Filippo Facci in prima pagina su Libero, c'è il PM che indaga il mondo e ora processa i vaccini. Scrive Filippo Facci: nel centro del mondo a Trani, un magistrato con la sua inchiesta sulle relazioni tra vaccinazione e autismo rischia di portare un autentico allarme sanitario, oltre che vanificare anni di politiche di prevenzione. Il PM Michele Ruggero da anni difende strenuamente la democrazia contro gli oscuri meccanismi della finanza globale. Negli ultimi anni è passato disinvoltamente da un'indagine sull'ex premier Berlusconi a una sulle agenzie mondiali di rating Standard & Poor's e Moody's, in generale su Wall Street che avrebbe speculato sull'Italia. Ha ascoltato in questa inchiesta ministri, banchieri, ex presidente del Consiglio, premi Nobel, programmato missione negli Stati Uniti. Non è mancato un fascicolo contro i general manager di 5 banche non proprio minori, già indagati per manipolazione del mercato interbancario. Tutte queste inchieste per ora non hanno portato a granché, ma ecco l'organizzazione, ecco l'inchiesta contro i vaccini. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, scrive Facci, ha già dedicato di recente un opuscolo sullo studio inglese che accreditò questo legame vaccini-autismo, definito poi questo studio una frode scientifica, rimosso dalla rivista Lancet che l'aveva pubblicato. Il medico che l'aveva scritto fu radiato nel 2010, eppure continua questa vicenda, questa diceria e anche l'inchiesta della procura di Trani. Il PM che indaga il mondo processa i vaccini su Libero. Siamo velocemente alla conclusione. L'articolo più inutile trovato sui giornali, cioè la carta costa. Oggi Andrea Cuomo sul Giornale dedica una pagina all'ammazza caffè. Ma perché? Non lo so perché. Forse perché la carta costa. L'ammazza caffè, che in Italia è un po' scomparso, in tutto il mondo invece... sapete che l'amaretto di Saronno è amato da Eva Longoria e il Fernet Branca è molto diffuso in Argentina? Ma beati loro, ma anche chi se ne frega. Vabbè, andiamo al giornale radio. 24 mattino. Quando sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, magari state per prendere un treno o un autobus, magari lo avete appena preso, magari ci state ascoltando da lì, insomma, da uno dei mezzi di trasporto locali, tram, metropolitane, chi lo sa. Intanto, vabbè, sappiate che è un'idea. è un'idea, al momento solo un'idea. Si sa che però in Italia questo tipo di idee purtroppo diventano realtà quando meno ce l'aspettiamo. Vale a dire l'idea di aumentare le tariffe dei biglietti dei mezzi di trasporto locale. D'altronde c'è un signore, Carlo Cottarelli, che sta facendo tutta la questione della revisione della spesa e per esempio in Italia solo, pensate, il 22% del costo del biglietto che avete pagato, sempre che l'abbiate pagato, copre il viaggio, il costo del viaggio che state facendo. In realtà europee il biglietto arriva a coprire con il 50-60% del biglietto, copre, cioè il vostro biglietto copre il 50-60% del costo del viaggio che state facendo. Sta di fatto che si discute di questo, Cottarelli l'ha messo anche nella sua relazione. Una delle idee certamente è falcidiare per esempio tutte queste poltrone delle 1700 società partecipate dai comuni, che sono, per carità di patria, non vogliamo anche affrontare come sono gestite. Questa è una delle soluzioni per risolvere il problema del trasporto pubblico locale, ma l'altro è quello certamente di adeguare le tariffe a livelli europei. E vi sento già montare di protesta, dire sì, ma adeguate anche il servizio magari a dei modelli europei. Sta di fatto che parlarne in questi giorni, soprattutto con le polemiche che ci sono state, anche con le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Trenitalia Moretti, che dice: io prendo 833.000 euro, ma se mi volete imporre il tetto da 300.000 me ne vado, e come me molti manager bravi andranno dove vengono pagati di più o il giusto, dice lui. Insomma, bando a populismi, ma affrontiamo questo tema con il professor Marco Ponti. Buongiorno, professore al Politecnico di Milano, esperto di trasporti, ben trovato professor Ponti. Buongiorno a voi. Scrive anche sul Fatto Quotidiano spesso. Saluto anche Carlo Rienzi, presidente onorario del Codacons. Buongiorno ai consumatori, Rienzi. Buongiorno, mi avete fatto un orario? Un orario in che senso? No, se Dio presidente onorario. Ah, no, presidente. No, presidente, l'ho fatto onorario. Ho vinto qualche onore come i nostri politici. Le metto una medaglia al collo, se vuole. No, intanto che lei che effetto fa? Subito combattivo a sentire di aumentare i prezzi subito, Rienzi mi parte, lancia il resto. Ma ci sono due questioni semplicissime. Una è che, come ha detto lei, equipariamo anche il servizio. Non so se avete mai preso un autobus in Svizzera, e non dico solo in Svizzera, ma anche in Spagna e in parte in Francia. Cioè c'è il posto a sedere, arrivano puntualmente, arrivano regolarmente. Ecco, qui da noi è un caos, fanno saltare le corse al capolinea, per cui alcuni numeri sono famosi perché devi aspettarli 30-40 minuti, e allora che fai? Dici: prendo la macchina. E questo è il problema grave. Il servizio pubblico potrebbe anche costare di più, perché il cittadino può anche essere disposto a pagare qualcosa di più, ma deve essere certo di avere in cambio un servizio migliore. Questa è la prima questione. Poi parliamo dell'altra, quella dei dirigenti. Quella dei dirigenti, certo, ne parliamo. Però intanto questa cifra, professor Ponti, in Italia solo il 22% del nostro costo del viaggio è coperto dal biglietto, in Europa si viaggia 50-60%. Intanto ci confermi o meno, smentisca queste cifre, e in base a queste cifre Cottarelli dice forse bisognerebbe più che raddoppiarle. No, il 22 è un po' basso, in effetti è il 29, quindi non siamo lontanissimi, e siamo molto lontani dalla media europea. Poi non sono d'accordo che tutti i servizi di trasporto pubblico funzionino male. Si sente, perché fa notizia sui media, le proteste per i servizi di cattiva qualità, che sono soprattutto proteste di quelli che vanno in treno, che però è una minoranza molto molto piccola, meno del 10% dei pendolari usa il treno. Alcuni servizi ferroviari fanno schifo, altri servizi ferroviari funzionano bene, ma non fa notizia. Cioè bisogna vedere la situazione media, perché la più recente ricerca sull'argomento, quello della Cassa Depositi e Prestiti, molto ricca di numeri, dice che abbiamo la dotazione maggiore di servizi rispetto al resto d'Europa. La qualità può non essere eccessa, ma va ricordato anche l'altro numero, cioè come si fa a dire in termini un po' semplici, posti chilometro per abitante, cioè quanti autobus vanno in giro per abitante, è il numero più alto. Trattato d'Europa, quindi non siamo nemmeno così malmessi. Certo ci sono aspetti che non funzionano, ma questo c'è abbastanza ovunque. Il problema è che abbiamo dei costi di produzione, cioè tra costo del lavoro, costo dell'autobus, costo della gestione, tra i più alti d'Europa e insieme alle tariffe più basse d'Europa. Questo determina un buco, cioè un deficit, che è insostenibile per le casse pubbliche in questo momento. Quanto spende lo Stato? Io ho letto questa cifra sulla stampa, 5 miliardi di euro l'anno per il trasporto pubblico locale, una cifra attendibile. Circa, sì, oscilla un po', ma è intorno a quella cifra lì. La spesa solo per il trasporto però comunale, cioè il trasporto pubblico, sì, certo, locale, vero? Poi ci sono i sussidi al trasporto ferroviario, che sono 1.500.000 euro in più. È chiaro, però ipotizziamo, certo, ipotizziamo che... Per dare un'idea, a Milano il sussidio al trasporto pubblico costa 1 milione al giorno, ma questo non si deve sapere e non viene pubblicizzato. Questo è l'aspetto più grave, che non si vuole far sapere la voragine dei conti dei trasporti pubblici. Beh, ma è incredibile, con queste cifre, è chiaro, io non sono un esperto, lei sì, ma con queste cifre dovrebbe, non dico funzionare tutto come un orologio svizzero, ma certamente vuol dire che sono spesi male, per esempio in quelle 1700 società che forse per carità di patria, io dico, non citiamo come alcune di queste vengono gestite, ma sono cronache giudiziarie che possiamo trovare sui giornali. Certamente, ma come le dico, io faccio l'economista e guardo i grandi numeri, ci sono pessime gestioni, ma su questo ci sono altri rimedi, volendo più avanti ne parliamo, ma non si può dire tutto il trasporto pubblico in Italia funziona male, questo non è un argomento sostenibile, ma questo anche negli altri paesi, deve sentire le lamentele tedesche o francesi, ci sono dei servizi che funzionano male, senza dubbio, ma dire non si devono alzare perché tutti i servizi di trasporto pubblico funzionano male non ha nessun senso e non è difendibile. Allora, io, Carlo Rienzi, veniamo alla, come dire, la provocazione che faccio mia, ma alcuni messaggi già arrivano su questo. Quanti in Italia pagano il biglietto? Perché siamo sempre pronti poi a criticare, quelle che sono le critiche da fare vanno fatte, ma quanti poi si criticano dicendo io il biglietto l'ho pagato oppure no? Sì, però prima, scusa, ma quanti... dice il professore che lui guarda i grandi numeri, io non guardo i grandi numeri, prendo l'autobus, perché se facciamo le medie del pollo mezzo a te mezzo a me, alla fine dice vabbè, ma ci sono tanti autobus. Allora, quante volte da Roma in giù è un disastro il trasporto pubblico urbano, a Roma passano a volte due autobus identici uno dietro l'altro, capita quasi sempre, questo il professore non lo sa perché forse vive a Milano o al nord. Bene, allora dice ci sono molti autobus per cittadino. Certo, se però poi passano due insieme e poi aspetti 40 minuti non serve. E questa è una. Poi ci sono a volte delle situazioni di impossibilità di salire sull'autobus. A Salerno, perché io sono nato a Salerno e spesso ci torno, non ci sono proprio gli autobus. Cioè non hanno manco i soldi, dicono loro, per farli girare. Allora... non parliamo delle ferrovie, perché anche lì dice non tutto funziona male. Certo, adesso l'alta velocità funziona bene, ma a quali costi? Cioè, ormai io non posso andare da Roma a Milano se non pagando cifre iperboliche di alta velocità. Hanno soppresso gli intercity, hanno soppresso gli interregionali, quindi tu sulle linee più frequentate devi andare per forza sull'alta velocità e quindi hai subito un aumento del prezzo perché sei costretto a prendere treni carissimi. Sulle altre linee, anche qui non so se il professore prende la linea Roma-Civitavecchia, va alla Dispoli, a Santa Marinella qualche volta, sì, sì. E si accorge della puzza che c'è su questi treni dove non ti puoi avvicinare. Allora questo è il punto, è inutile dire i grandi numeri, poi la media... Cioè abbiamo abbastanza autobus e non va tutto male. Il problema è che, come al solito, dove c'è redditività, dove c'è profitto alto, e questa la domanda riguardo all'evasione del biglietto è giusta. La gente evade il biglietto un po' perché non c'è i soldi, un po' perché dice il punto più debole, un'evasione dove, che vuoi che mi succeda, mi manda la multa a casa, manco mi trovano, e un po' perché però sono esasperati. A volte io salgo e non pago il biglietto quando ho aspettato più di un quarto d'ora l'autobus. Se viene il controllore, mette a verbale che sono loro che mi devono pagare a me. No, ma è chiaro, però Ponti, qual è il problema? Ma quale profitto? Se il sussidio medio è il 70%, cioè sono voragini comunque, profitto non ce n'è proprio la minima ombra nel settore, è una voragine di conti pubblici e bisogna guardare le medie, non i singoli episodi, perché è la media che rende insostenibile economicamente il servizio. Poi certo bisogna intervenire sui singoli episodi, ma soprattutto i grandi numeri per cui lo Stato va in malora, non per i piccoli numeri per cui i comuni vanno in malora. Sono questi grandi numeri che li mandano in malora e non si può non partire da qui, se no si bisogna tagliare altri servizi, la sanità, la scuola, eccetera. E bisogna partire dai grandi numeri. No, ma è chiaro, a proposito di grandi numeri, qui ripartiremo dopo la pubblicità, è chiaro che in tutto questo discorso si innesta anche la polemica sull'emolumento, sullo stipendio, come lo volete chiamare, dell'amministratore delegato di Trenitalia Moretti, sui questi 833.000 erotti euro, che chiaramente in questa discussione, in questo tentativo di calmierare gli stipendi dei manager pubblici, che tra l'altro è un tentativo, è un decreto legge del governo Monti volendo, però insomma non ci sono poi i decreti attuativi, i regolamenti per applicarlo e quindi non viene applicato, però questo si innesta ovviamente in questo discorso in cui da una parte il cittadino legge ma come, vogliono aumentare le tariffe, dall'altra parte eccola la polemica sullo stipendio anche dei manager. E da qui ripartiamo con Carlo Rienzi e Marco Ponti, anche le vostre chiamate all'800 24 00 24 tra poco. 24 mattina. Allora, il trasporto pubblico locale, ne stiamo discutendo con Marco Ponti, docente del Politecnico, con Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Vorrei sentire Giulio. Ah, tra l'altro ci dicono anche via Twitter, ci arrivano messaggi, ecco, giusto, lupus in fabula, la linea rossa del metro a Milano pare sia interrotta in una tratta, in questo momento faccio anche una comunicazione di servizio, per chi si deve mettere la metropolitana milanese, pare per un malore, non lo so, comunque in questo momento disagi, vabbè, queste cose succedono, non è che si può pensare. Comunque Giulio da Roma ci ha chiamato. Giulio, buongiorno. Buongiorno Milan. Volevo solo dire che tutti i ragionamenti che ho ascoltato poc'anzi sono tutti pertinenti a mio avviso. Il problema di fondo è che in Italia in tutti questi anni c'è stato davvero mismanagement, inutile nasconderselo. Ma al di là di questa valutazione, il dato inquietante è la divisione che c'è, la separazione netta tra il modo di gestire i trasporti nell'Italia, da Roma in su, rispetto a quello che invece succede nell'Italia meridionale. Io non so se ti è capitato mai di prendere il treno e di andare da Roma a Bari. I trasporti delle Ferrovie dello Stato, per quanto concerne l'Italia meridionale, gridano davvero vendetta al cospetto di Dio. E questo, a mio avviso, è un dato su chi fa politica, ma anche sì, chi opera nel settore dovrebbe interrogare. Deve tenere conto. La ringrazio, Giulio, per questa considerazione. A proposito di profondo nord, andrei a Bolzano da Ugo. Buongiorno, Ugo. Buongiorno. È quello che volevo dire io, ho sentito un po' i ragionamenti all'inizio. L'unica cosa che mi pare evidente è che i costi dei mezzi pubblici li sostenga chi i mezzi pubblici non li usa. E questa mi sembra l'unica vera bestialità. Poi, partendo da questo, andiamo a ragionare su tutto il resto, miglioramento dei servizi. Ma chi usufruisce dei mezzi pubblici deve mettersi in testa che un servizio si paga. Beh, lo paga col biglietto, chi non lo usa, sì, tutti lo paghiamo, la collettività con le tasse, il servizio perché sia fruibile da tutti. Poi se uno non lo usa mai in vita sua è una scelta, no, è una scelta però personale. Il discorso è che con il prezzo del biglietto, l'autista del pullman con il prezzo del biglietto non si pagherebbe, guadagnerebbe 300 euro al mese, cioè mi faccia capire, secondo lei andrebbe pagato col costo del biglietto il 100% del costo del viaggio? Si dovrebbe... chi vuole un servizio efficiente paga, cioè se io non voglio avere orari chiamo un taxi, viene quando voglio io e mi porta dove voglio io. Ma d'accordo, Ugo, ma d'accordo, oppure si potrebbe pagare, non voglio fare populismo, ma su questo vorrei coinvolgere e la ringrazio sia Ponti che Rienzi, si potrebbe pagare anche magari perché si scopre che all'ATAC nessuno si fa i biglietti falsi stampandoli, oppure perché non ci sono i trombati della politica messi in una di queste società compartecipate dai comuni, non so, Ponti, potremmo continuare, cioè si possono anche pagare così, ripagare così gli investimenti. Dunque, il problema è quanto ripagare, perché del deficit, cioè del fatto di quel 29%, cioè che i biglietti non pagano quasi nulla, bisogna ricordare che è fatto da due fattori: uno le basse tariffe, ma anche l'altro è quello che ricordavo prima, gli alti costi di produzione, in cui ci sono i dirigenti, ma non solo, perché il costo medio del lavoro, mi spiace dirlo, ma io lavoro anche col sindacato, il costo medio del lavoro nel trasporto pubblico italiano è altissimo, cioè è dell'ordine dei 45.000 euro all'anno, che non vanno in tasca al dipendente medio, ovviamente il costo per il datore di lavoro, però rispetto a un 35 del settore privato, quindi ci sono anche situazioni, e poi la produttività è molto molto bassa. Il che vuol dire che bisognerebbe privatizzare di più? Io non parlo di privatizzare, mettere in gara, neanche liberalizzare, cioè solo mettere in gara i servizi, che è il passo più timido, più tranquillo che si possa fare. Voglio un servizio sociale, cioè sussidiato, stabilisco il sussidio e poi dico che le tariffe sono di questo tipo, il servizio deve essere di questo tipo, e chiedo con una gara chi mi chiede meno sussidi, come si è stato fatto in Germania, in Francia e in Inghilterra. Sì. Cioè mantengo la socialità del servizio, ma almeno sul lato dell'offerta abbasso i costi, perché lo metto in gara per temporaneamente. Ci sono anche tantissimi, no, è chiaro, ci sono anche tantissimi messaggi di chi dice questa divisione al sud e al nord si vede. E Carlo Rienzi, c'è un ascoltatore via Twitter. Ci scrive Fausto Sorino, dice: da ragazzino aspetta l'autobus a Roma, sono diventato filosofo. che ci sono anche degli aspetti positivi se uno la vede nel modo giusto, no? Però condivide lei, Rienzi, allora quello che diceva l'ascoltatore, dice: c'è un'Italia spaccata in due anche sul sistema dei trasporti? Ma assolutamente, volevo precisare che in Italia ha chiuso il bilancio in forte attivo, chiaramente all'attivo perché ha gli aiuti di Stato, ma per la parte di pedaggio, diciamo, anche se in lieve calo, ha sempre un aumento degli introiti, perché da una parte aumenta i biglietti dei treni poveracci, diciamo così, quindi quelli su cui non ha concorrenza, perché tanto lì se vuoi andare da Roma a Civitavecchia o prendi Trenitalia o vai a piedi, e questo è stato anche oggetto di un esposto all'antitrust fatto dal suo concorrente. Dall'altro aumenta sui treni ad alta velocità dove c'è concorrenza, in che modo? Facendo spostare gli utenti sui treni ad alta velocità, sopprimendo quegli altri. Che si sia fermata la modernità, il progresso, e che questi soldi vengano investiti solo fino a Salerno, come Cristo che si fermò ad Eboli, è un dato di fatto. Loro dicono: noi non ci conviene fare l'alta velocità fino a Reggio Calabria, perché l'entità del trasporto è bassissima, e grazie, è un cane che si morde la coda. Se tu hai un servizio pubblico e non lo attrezzi ad arrivare fino a Reggio Calabria, la Calabria soffrirà sempre, e così la Sicilia del suo isolamento. Sì. Quindi è una cosa sbagliata. No, ma è chiaro, io prima di entrare nella questione anche Moretti, sulla quale vorrei un vostro parere, vorrei sentire anche Giuseppe da Pescara, ci chiama. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, scusate un po' l'emozione. No, allora, ma non è che se... Prego, non è prego, che sono dipendente per quanto riguarda la TAF di Firenze, un'azienda pubblica che era la migliore d'Italia, Florida, ed è stata privatizzata perché la gran parte di questi problemi stanno nella cattiva gestione sia politica che dirigenziale. Io porto un esempio: 1.000.000 e passa di euro per investire su della pubblicità interna fatta con dei pannelli pubblicitari. Praticamente il costo non è stato ripagato nemmeno per quanto riguarda il 5% per gli introiti pubblicitari. Nella città più bella del mondo, Firenze, sono stati praticamente messi dei pannelli pubblicitari che non hanno avuto appeal per quanto riguarda la pubblicità, perché la gente, ovviamente, i turisti guardano all'esterno, non guardano all'interno. Allora, i dirigenti non hanno pagato, non sono stati indagati, anzi tantomeno hanno fatto anche carriera politica, ma questo è uno dei tanti esempi che insomma, io lei sta dicendo, cioè ci racconta appunto di quello che sono poi la gestione dirigenziale, no? Il certo, problema. Ma anche politica, c'è stata la volontà politica di privatizzare Firenze, ma non credete che il privato sia la soluzione ai nostri problemi? Le corse la mattina presto che prendono i lavoratori e la sera tardi verranno abolite, perché il privato deve fare profitto, e facendo profitto non ha interesse a tenere delle corse che servono ai lavoratori e quindi vanno a tagliare anche su questo. Il costo del biglietto, io da autista, cioè io vorrei che pagassero tutti il biglietto, mettiamo i tornelli come stanno in America, io sarei disposto a vigilare in prima persona, nonostante lei sarebbe disposto nonostante questo si dica poi sindacati e no, sediamo al conducente come se è in tutti i paesi del mondo, in molti paesi del mondo la possibilità di far pagare il biglietto quando uno sale, se no non ti faccio salire, no? Come a Londra per esempio, no? Che non mi sembra una capitale del terzo mondo, e molti sindacati dicono no, non si può dare questo compito al lavoratore. Giuseppe, la ringrazio. Su questo Ponti vorrei capire, e poi anche la questione di Moretti, anzi iniziamo da Moretti, le dà fastidio le dichiarazioni che ha fatto l'amministratore delegato di Trenitalia? No, ma bisogna chiarire, non è stata privatizzata l'azienda di Firenze, è stata comprata da FS, che è una società al 100% pubblica, quindi è ancora pubblica. Non è la stessa cosa, No, e torniamo torniamo a FS, che è padrone di dei servizi di Firenze, ed è super sussidiata, e anche Firenze rimane super sussidiata, quindi non dimentichiamo che questo è il regno del sussidio, non del profitto. Quindi torniamo a FS. Allora, la questione è questa: secondo me il problema è che i dirigenti di aziende pubbliche sussidiate non hanno lo stesso ruolo di dirigenti di aziende private, che se non aumentano i profitti per il padrone vengono giustamente cacciati. Un'azienda come FS, che prende da noi 7 miliardi all'anno in media, il suo obiettivo principale, per ovvie ragioni, siccome quella è la fonte principale di reddito, è cavar soldi alla politica, cioè a noi. Cioè cercare di non diminuire i sussidi e di aumentare i sussidi, e questo è il vero obiettivo, e non può fallire per di più. Quindi secondo me è giusto mettere considerare una differenza tra aziende pubbliche, certo, e aziende private. È la stessa. In questo posso dire le ha dato un po' fastidio le dichiarazioni di Moretti, essendo appunto un'azienda. Ma le ho trovate inopportune, perché è vero che ci sono dirigenti ferroviari che prendono di più di Moretti, ma se guarda la media che ha calcolato proprio sul sole sulla voce Perotti, in media i dirigenti di aziende pubbliche europee prendono meno della metà. Sì, poi c'è una legge, forse qualcosa è opportuno. C'è anche questo decreto Monti, no, Rienzi, che però non è mai stato applicato. Rienzi ovviamente tuonerà adesso contro le dichiarazioni di Moretti, no? No, non è che tuono, è che questi boiardi di Stato, che non è un'offesa ovviamente, no, perché come diceva il professore, nessuno li tocca. Cioè loro dicono, tanto scadiamo fra 3 anni, non hanno gli azionisti che li cacciano via. Cioè voi forse non sapete che Moretti si sceglie pure, ed è di Stato, le associazioni dei consumatori con cui dialogare. Praticamente fa i tavoli escludendo Codacons e alcune altre. Immaginavo che il Codacons non ci fosse. Una volta gli abbiamo portato un water in regalo, quando avevamo talmente tante proteste per i bagni sui treni, compresa l'alta velocità, che la gente era esasperata. Però anche allora voi, noi abbiamo fatto una anche voi, Rienzi, vi presentate da amministratore delegato col water, e poi dopo pensate di essere ben accolti, non ho capito. Ma mi pare però che per questo un ente di Stato dice, da oggi io non ti invito più, e ci ha pure denunciato per l'invasione delle ferrovie dello Stato per entrare in portineria a lasciare il pacco col water, cioè denunciato penalmente. Cioè, ma che modi sono? Cioè, invece portare un cesso all'amministratore di Trenitalia, che modi sono, si potrebbe dire, Rienzi? Ma no, perché è simbolico, era un'iniziativa di 10 associazioni con le testate televisive, le interviste ai passeggeri che non ne potevano più. Cioè è chiaro che si tratta di una dialettica che questo signore perché lo può fare? Perché nessuno gli dice niente, chi vuoi che gli dica qualcosa? Oddio, adesso sembra che anche ieri Lupi ha detto una stupidata, se ne vada, se non è contento. Ma meno male, noi paghiamo il biglietto di sola andata con l'aereo, però, perché così non fa ritardo e rischia di far danno rimanendo qui. e glielo paghiamo noi. Il codice si è già dato, si è depositato il codice del biglietto e non torni più. Mannaggia, va bene. Io ringrazio Carlo Rienzi e Marco Ponti, professor Marco Ponti, per essere stati con noi. A proposito di tetti ai manager pubblici, in questo caso tetti diversi alla Camera e al Senato, perché un altro fronte lì, perché lì l'abbiamo spiegato varie volte, c'è l'auto di chi è, quindi l'indipendenza, l'autonomia. E allora come si fa a mettere dei tetti lì? Bisogna trattare ovviamente con le sigle sindacali dei dipendenti di Camera e Senato. Lo sta facendo la vicepresidente della Camera Marina Sereni, che abbiamo chiamato già anche in passato e che è con noi nuovamente. La saluto, buongiorno. Buongiorno onorevole. Allora le chiedo un attimo di cortesia, di pausa, c'è il traffico e poi sono subito da lei. 24 mattino. Allora, con la vicepresidente della Camera Marina Sereni del Partito Democratico, che presiede anche il Comitato per gli Affari del Personale della Camera. Intanto, onorevole Sereni, se si vuole applicare questo tetto che c'è per decreto legge, 300.000 euro per i manager pubblici, questo è auspicabile che venga anche applicato ai dipendenti della Camera, dove ce ne sono alcuni che guadagnano fino, se non sbaglio, a 400, anche 450.000 euro? Ma certamente l'autonomia costituzionale e organizzativa non può voler dire essere fuori dal mondo. Io credo che gli uffici di presidenza di Camera e Senato in questo caso abbiano colto davvero il clima che c'è intorno a noi e la necessità che la politica e le istituzioni diano il buon esempio. Quindi se c'è un tetto massimo per le massime cariche amministrative presenti in tutta la pubblica amministrazione, è un po' diverso il caso dei manager pubblici, ma non ci entriamo ora, è bene che si cerchi la strada per avvicinarci a quella situazione lì. Noi abbiamo approvato nuove curve stipendiali per i nostri dipendenti, che sono del 20% più basse di quelle precedenti, valgono per i nuovi assunti, le abbiamo fatte insieme Camera e Senato, sì. In quelle nuove curve già si sta sotto il tetto, no? Allora il tema è come facciamo per i dipendenti già in servizio infatti. Avvicinare la situazione di oggi a quella a cui vogliamo tendere. E come si fa? Si tratta con i sindacati, insomma, è solo che sì, sono intanto vediamo sono qual tanti. È lo strumento. Lo strumento è raffreddare gli scatti stipendiali a fine carriere, cioè prendere l'impegno per la parte finale appunto della carriera dei nostri dirigenti dipendenti ad alleggerire, diciamo, l'aumento, così da riportare il massimo che si può raggiungere al di sotto di quel tetto di 311.000 euro. Si tratta con i sindacati, intanto è molto importante che lo stiamo facendo insieme. Guardi, ce lo vuole ricordare perché la situazione ovviamente non è facile. Quanti sono i dipendenti della Camera? I dipendenti della Camera sono circa 1.500. E purtroppo ci sono tante sigle sindacali. E sono diminuiti, lo dico perché penso che sia un dato, sono diminuite negli ultimi anni di circa 500 unità, quindi noi siamo chiamati a fare le stesse cose, possibilmente meglio, diciamo, di prima, con meno personale. Abbiamo un'esigenza di modernizzazione, di riorganizzazione della struttura. A fronte di questo, insieme al Senato, e questo è una novità positiva, perché in genere Camera e Senato si faceva a gara chi rallentava di più i processi di riforma, invece in questo caso ci si è messi insieme per unire le forze e accelerare i processi di riforma. Camera e Senato hanno 10 sigle al tavolo sindacale, 10 per la Camera e 10 per il Senato. Sono 20. Che sono molte, alcune delle quali sono rappresentative di singole categorie, quindi è un quadro di rappresentazione sindacale diverso da quello a cui siamo normalmente abituati nel pubblico impiego anche. E voglio dire subito però che noi abbiamo iniziato questa trattativa con le migliori intenzioni. Sì. Abbiamo detto esplicitamente che vogliamo ricercare un accordo. E avete riscontrato migliori intenzioni anche dall'altra parte? Perché... ancora c'è una, diciamo, ci si sta, come si dice, ci si sta annusando. Non c'è stata una cattiva accoglienza all'idea di armonizzare i trattamenti, perché partiamo anche da situazioni diverse tra la Camera e il Senato storicamente, quindi è chiaro che abbiamo istituti anche sia giuridici che economici diversi. Abbiamo però chiarito insieme alla Presidente, alla Vicepresidente Fedeli, che è la mia omologa al Senato, che ricercare l'accordo non significa significa sentirsi obbligati ad un accordo. No, è chiaro, noi però c'è, ricercheremo c'è, l'accordo, no, ma alla certo. fine vogliamo decidere. Cioè, volete decidere, ma nel senso che c'è anche la possibilità, in caso di una concertazione, uso questo termine che non è molto di moda, no, anche all'interno del suo stesso governo. Sindacati, o si fa una trattativa o si è fa chiaro, una trattativa. Diciamo, cioè, proprio, E se no, cioè, voglio dire, essendoci appunto l'autonomia, non essendo imponibile dall'alto, da una legge dello Stato, quello che succede alla Camera, quale nello scenario peggiore, cioè, potrebbe esserci anche un'imposizione? Scenario peggiore, guardi, purtroppo questo scenario peggiore, almeno alla Camera, si è già verificato sui primi provvedimenti che abbiamo preso, perché noi all'inizio della legislatura abbiamo abolito alcune indennità contrattuali risparmiando 500.000 l'anno, abbiamo ridotto le indennità di funzione risparmiando quasi 1.000.000 l'anno, abbiamo sospeso e poi cancellato l'adeguamento automatico delle retribuzioni per il 2014-2015 risparmiando 18.000.000 per il 2016, tutto questo è accaduto purtroppo, dico io, senza l'accordo certo. con i sindacati. Quindi ad un certo punto, però esperendo tutte le strade possibili di accordo, perché stiamo parlando di un processo di riforma molto ambizioso che avrebbe bisogno anche della partecipazione dei dipendenti, ad un certo punto gli uffici di presidenza di Camera e Senato ovviamente decideranno, è chiaro. Devono decidere. Mi ci ricorda quanto può essere lo stipendio più alto a fine carriera di dipendente di Camera e Senato? Credo i segretari siano i più pagati. Ma guardi, pagati. I segretari i numeri stanno tutti sui siti sì, di Camera sì. e Senato, i segretari partono già. Il segretario generale della Camera e immagino anche del Senato, anche se quello del Senato non ho il numero certo, parte già da un contratto che sulla carta appunto è di 400.000 euro, questo quindi inizio, superiore inizio. Al tetto, quindi può arrivare anche a cifre a fine può arrivare carriere. Anche più in alto, perché c'è una c'è riscatti, un aumento sulla riscatti, base anno okay. eccetera. Questo non toglie che noi abbiamo adesso, io ragiono un po' con numeri approssimativi, noi abbiamo soltanto una 30 persone probabilmente nell'ambito del tutto il personale della Camera che già sono sopra il tetto per carriera, per anzianità eccetera, sopra quel tetto, quindi introdurre quella norma e quella regola che le dicevo io introduce una norma che nell'immediato magari ci fa risparmiare poco, qualche centinaio di milioni, ma qualche centinaio di migliaia sì. di euro, però nel futuro ma sì, strada facendo chiaro, si somma e quindi c'è un effetto montante, come si dice, e ci fa risparmiare molto. No, ma l'idea è questa, cioè l'idea che un qualcosa che si prende come iniziativa per oggi, magari oggi avrà degli effetti minori, ma che nel futuro, se si pone un tetto e se si fa rispettare, finalmente possa produrre benefici, soprattutto in futuro. Io mi devo fermare, la ringrazio onorevole Maria Sereni, vicepresidente della Camera del Partito Democratico, guardi che, come l'abbiamo chiamato una volta, insomma, continueremo a controllare questo tavolo con 20 sigle sindacali tra Camera e Senato, non certo facile, anche in futuro. Ci fermiamo qui con Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Carmelo Lauricella in regia, ma l'Alpino dove l'hai messo? L'hai rottamato, sempre di notte, no, non lo so. Vabbè, l'appuntamento è rinnovato a domattina 6:30, ma la sigla dov'è? Non la metti. Ah, eccola, adesso la sento. A domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e gli astriti da politica.